terra. Non voglio sentire la falsa pace di coloro che lodano la povertà, ma che non sanno cosa sia. Non sono un uomo felice, spesso provo una grande rabbia contro la vita che non è l'ideale. Se spreco il mio tempo a sognare, vorrei trovare le forze per cantare, chiamarti è sempre l'immenso per me. Sono desiderio, sono disperato, ma io voglio vivere per te. Sono la guerra tra le illusioni e la realtà che dà dolore al cuore. Mi sveglio con gli occhi che avrebbero visto un paese di fortuna. Ma tu dici che devo essere paziente, non basta gridare la mia rabbia quando non ho più niente, niente da piangere. E che sei lontano di me. Vorrei trovare le forze per cantare, chiamarti è sempre l'immenso per me. Sono desiderio, sono disperato, ma io voglio vivere per te. Chiamarti è sempre